Komro, Chrysler, Komro, BMW, Komro, Opel, Komro, Peru, Komro, la Cina, Komro, New York, Komro, la terra e le armi da guerra. Ho soldi, soldi, soldi a palate, spuntano fuori come insalate, non so più dove metterli, cosa dovrei fare, ho scoperto anche di avere un potere speciale, per produrre soldi mi basta comprare. All'improvviso non so come sia capitato, spuntano soldi anche in mezzo al gelato, dentro ai cassetti e alla lavabiancheria trovo soldi, soldi, soldi come per magia. Compro, compro i soldi, ce li ho, non dubitate o mi arrabbierò. Compro però e io compro, compro però e io compro anche te. Thank you.